Capitolo 21 Nel Kentucky. Non increscerà alla lettrice di ritornare per breve tempo alla capanna dello zio Tom, nella fattoria del Kentucky, e sapere che cosa avvenisse fra coloro che vi abbiamo lasciati. Era il tramonto di un giorno estivo, gli usci e le finestre dell'ampia sala erano spalancati come per accogliere i soffi erranti del venticello che avessero la voglia di entrare. Il signor Shelby stava adagiato sopra un seggiolone, tenendo le gambe sopra una sedia e fumava il sigaro del dopopranzo. Sua moglie, seduta accanto all'uscio, attendeva un lavoro d'ago con l'aria pensosa di chi sta cercando il destro per entrare in un argomento che le sta molto a cuore. «Non sai?» disse ella, «che la zia Chloe ha ricevuto una lettera da Tom?» «Davvero? Si dice che Tom abbia trovato degli amici laggiù. Che cosa scrive il buon vecchio?» «Oh!» Egli fu comprato da una famiglia molto onorevole, a quanto pare, disse la signora Shelby, è trattato con benevolenza e non ha molto da fare. Oh, ne godo infinitamente, esclamò con schiettezza il signor Shelby. Credo che Tom si rassegnerà volentieri a rimanere nel sud, né si curerà di tornare da queste parti. Al contrario, egli chiede ansiosamente quando sarà pronto il denaro per redimerlo, rispose la signora Shelby. Ti accerto che non lo so. Quando gli affari cominciano ad andar male non se ne vede più la fine. È come chi vuol trarsi da un pantano, quanto più si fatica per uscirne, tanto più si va a fondo. Si contrae un debito per pagarne un altro, e poi un altro per pagare quello. Le cambiali piombano addosso prima che un galantuomo abbia tempo di fumare un sigaro o di voltarsi. Quindi lettere importune, richiami incessanti di creditori, piovono come una fitta grandine. Mi sembra, amico mio, che si potrebbe fare una cosa per uscire d'impaccio, vendere i cavalli e anche uno dei tuoi poderi per pagare quanto è dovuto. Stoltezza, Emilia mia, tu sei la miglior donna del Kentucky, ma non hai ancora il buon senso di accorgerti che non ti intendi di affari? Ah, le donne non ne sanno e non ne sapranno mai un'acca. Potresti almeno informarmi un po' dei tuoi, rispose la signora Shelby, o mostrarmi almeno una lista dei tuoi debiti e dei tuoi crediti, permettendomi che io tenti di far teco qualche risparmio. Per carità, non molestarmi. Io so come si possono accomodare le cose, ma non è facile equilibrare gli affari come sarebbe a Chloe tirar la pasta dei suoi pasticci. Sono faccende, ripeto, di cui tu non puoi intenderti. E il signor Shelby, non trovando altro mezzo per avvalorare la sua opinione, alzò la voce, modo di argomentazione convincentissimo per un marito che sta discutendo d'affari con sua moglie. La signora Shelby tacque e sospirò, ma intelligente e energica com'era, con una forza di carattere ben superiore a quella di suo marito, la proposta da lei fatta di aiutare il marito a mettere in ordine i suoi affari non era, in verità, una presunzione. Le stava molto a cuore di mantenere la promessa fatta a Tom e alla zia Chloe e si affannava nel veder crescere gli ostacoli contro l'attuazione del suo desiderio. Ma non credi che si possa in alcun modo trovare denaro, povera Chloe? Ella ha l'animo confitto in questo solo pensiero. Ah, me ne duole. Credo d'aver corso troppo nella mia promessa. Forse sarebbe meglio dirlo francamente alla zia Chloe affinché pieghi la fronte al proprio destino. Fra un anno o due Tom si unirà a un'altra e anche ella opererebbe saviamente pigliandosi un altro marito. Ma che dici mai? Io ho insegnato ai miei servi che i loro matrimoni sono consacrati quanto i nostri. Né potrei mai dare un tale consiglio a Chloe. È una vera disgrazia che tu abbia insegnato loro una morale al di sopra della loro condizione. È la morale della Bibbia, lo sai? Bene, bene, Emilia, non pretendo di mischiarmi nelle tue opinioni religiose, solo mi pare che siano impraticabili per gente della loro condizione. E in questo hai ragione, disse la signora Shelby, ed è appunto perciò che col più vivo dell'anima io odio la schiavitù. Te lo dico, mio caro, è impossibile che io dimentichi le promesse da me fatte a quelle povere creature. Se io non potrò raccogliere denaro in altra guisa, darò lezioni di musica. Spero che avrò abbastanza numero di scolari e guadagnerò io stessa quanto occorre. Voglio credere che non ti abbasserai fino a questo punto, Emilia. Non potrò mai acconsentirvi. Abbassarmi? Sarebbe questo un abbassarmi come il mancar di parola a quegli infelici? Ah no, per certo. Via, tu sei sempre di un eroismo esagerato, disse il signor Shelby. Ma credo che farai bene a pensarci seriamente prima di avventurarti a tali imprese da Don Chisciotte. Qui Il colloquio fu interrotto dalla zia Chloe, che comparve all'estremità della veranda. Di grazia, un momento, signora, disse ella. Che c'è di nuovo? Disse la signora Shelby alzandosi. Vorrebbe la signora dare un'occhiata a questo pollame? La signora Shelby sorrise, vedendo un mucchio di polli e anatre sopra la tavola, e Chloe starsene a guardarlo con aria grave e pensierosa. Vorrei sapere se alla signora piacerebbe che facessi un grosso pasticcio con questo pollame. In verità, Chloe mi è indifferente, cucinalo nel modo che più ti aggrada. Chloe rimaneva lì, ritta, maneggiando i suoi polli con aria distratta. E si vedeva chiaramente che la pensava ad altro. Infine, fece quel piccolo riso che i neri sono soliti di far precedere a una proposta ardita. Dio buono, perché mai il padrone e la padrona si affannano per trovare denaro mentre non profittano dei mezzi che hanno tra le mani? E Chloe tornò a fare il suo risolino. Non ti capisco, Chloe, disse la signora Shelby, accorgendosi che Chloe non aveva perduto una sola parola del colloquio svoltosi poco prima tra lei e suo marito. Che so io, padrona, disse Chloe, ridendo ancora. Vi sono parecchi, i quali danno a nolo i loro neri e ne cavano profitto. Non tengono tante bocche ghiotte in casa. Ebbene, zia Chloe, chi proporreste di dare a nolo? Io? Nessuno, dico solamente quello che ho saputo da Samuele, e che cioè a Louisville c'è un pasticcere che avrebbe bisogno di un buon lavorante in fatto di pasticcerie e che sarebbe disposto a dare 4 dollari la settimana. Ebbene? Ebbene, stavo pensando, signora, che sarebbe tempo di mettere Sally a fare qualche cosa, e l'ha imparato finora sotto di me, e ne sa ormai quanto la maestra, e se la signora mi desse solamente il permesso di andare, contribuirei per certo a raccogliere denaro. Non temo già di porre le mie schiacciate e i miei pasticci al confronto di quelli di un fabbricante di confetture. Vorresti dunque lasciare i tuoi figli? Signora, i maschi sono abbastanza grandicelli per lavorare di giorno e si sono svelti e capaci, e Sally avrà cura della bimba. Questa è sì quieta, ma non darà un gran da fare. Louisville è piuttosto lontano da qui. Oh, Dio buono, che importa? Non è forse all'ingiù del fiume, un poco più vicino al mio vecchierello? Disse Chloe, terminando con accento interrogativo e fissando in volto la signora Shelby. No, Chloe, è distante non poche centinaia di miglia, rispose la signora Shelby. Chloe rimase grandemente abbattuta d'animo. Non dartene pensiero, colà sarai sempre più vicina a tuo marito. Sì, ti è dato il permesso di partire e il tuo salario verrà posto da parte fino all'ultimo centesimo per il riscatto di Tom. Come una cupa nube ed improvviso inargentata da un vivo raggio di sole, così la faccia di Chloe brillò a un tratto di contentezza. Ah, la signora è troppo buona, io stavo proprio pensando alla stessa cosa, e poi non avrò bisogno né di abiti, né di scarpe, né di altra cosa qualunque, potrò risparmiare ogni centesimo. Quante settimane vi sono in un anno, signora? 52, rispose la signora Shelby. Tante? E a 4 dollari per settimana? Quanto si viene a fare? 208 dollari. 208! Esclamò con aria lieta. E quanto tempo dovrò lavorare lontana di qui? Beh, dai 4 ai 5 anni, Chloe, ma non avrai bisogno di guadagnare tutto, io vi aggiungerò qualche cosa. Oh, io però non vorrei sentir parlare la signora di dare lezioni né di cose simili, il padrone dice ottimamente, ciò non converrebbe affatto. Spero che nessuno della nostra casa sarà ridotto a tal punto finché io avrò due buone braccia. Non temere, Eclo, io mi prenderò ben cura dell'onore della casa, disse la signora Shelby sorridendo. Ma quando pensi di partire? Quando che sia, Samuele è sulle mosse per discendere il fiume coi puledri e mi ha detto che potrei andare con lui, perciò io avevo già preparato il mio fardello. Se la padrona mi permettesse di partire con Samuele domattina, potrebbe rilasciarmi il mio lasciapassare e una commendatizia. Ebbene, zia Chloe, lo farò. Il signor Shelby non avrà obiezioni da muovere, gliene parlerò io. La signora Shelby risalì nella sua camera e la zia Chloe, tutta esultante, se ne tornò alla sua capanna per fare i preparativi della partenza. Caro padroncino Giorgio, non sapete che io parto domani per Louisville? Disse ella a Giorgio quando questi, entrato nella capanna, la trovò intenta a porre in ordine i vestitini della sua bimba. Io stavo qui aggiustando le cose della mia figlioletta. Oh, padroncino Giorgio, io potrò guadagnare 4 dollari per settimana e la signora metterà da parte tutto ciò per riscattare il mio povero vecchio Tom. Brava, disse Giorgio, questo è uno stupendo affare. E quando ve ne andate? Domani con Samuele. E ora, padroncino Giorgio, sono certa che vi porrete a sedere e scriverete al mio vecchio per dirgli tutto quello che avviene. Oh sì, certo, disse Giorgio. Lo zio Tomo sarà oltremodo lieto di ricevere nostre notizie. Vado subito a prendere l'occorrente per scrivere e allora, come ben capite, Chlo potrà parlare dei puledri e di tutto. Sicuro, padroncino Giorgio, andate subito e io vi preparerò intanto un bel pezzo di pollo. Ah, non verrete più molte volte a cenar qui dalla vostra povera zia. Capitolo 22. L'erba inaridisce. Il fiore appassisce. La vita fugge rapida per tutti noi, e così un giorno dopo l'altro erano già passati 2 anni per il nostro amico Tom. Benché separato da tutto ciò che il suo cuore prediligeva e spesso pensieroso per l'avvenire, egli non era del tutto infelice. La sensibilità del cuore umano è un'arpa la cui armonia non cessa assolutamente, se un colpo formidabile non ne spezza in un sol tempo tutte le corde. E quando volgiamo uno sguardo addietro ai tempi che furono per noi pieni di angustie e di prove, ben possiamo ricordare che ciascuna ora portava seco distrazioni e sollievi per modo che non fummo mai del tutto infelici. Tom aveva imparato che l'uomo può vivere contento in qualunque stato di cose. Questa dottrina che gli aveva attinta dalla Sacra Bibbia gli pareva buona e ragionevole e si accordava bene alla quieta e meditativa disposizione d'animo che aveva acquistata nella lettura di quel libro stesso. Come abbiamo detto, il giovinetto Giorgio aveva risposto alla lettera di Tom in un bel carattere rotondo e grande, in modo che si sarebbe potuto leggere da un capo all'altro della camera. Egli dava le varie notizie della famiglia, dalle elettrici nostre già conosciute, che la zia Chloe era andata a servizio da un pasticcere di Louisville, dove per le sue cognizioni di pasticceria ella guadagnerebbe stupende somme di denaro, le quali sarebbero poste insieme per formare poi la somma totale occorrente al suo riscatto. Che Mosè e Pietro crescevano prosperosi e infine che la bambina correva per tutta la casa sotto la custodia di Sally e della famiglia in generale. La capanna di Tom era chiusa provvisoriamente, ma Giorgio descriveva gli abbellimenti che vi si farebbero al ritorno di lui. Lo stile di quella lettera era abbastanza conciso e chiaro, ma Tom se ne esagerava le bellezze e considerava questo scritto come un capolavoro dei moderni. Non si stancava mai di guardarlo e volle anche consultare Evangelina se non fosse bene incorniciarlo e ornarne il muro della sua cameretta. Egli non ne fu impedito che dalla difficoltà di fare in modo che si potessero vertere le due facce della pagina un tempo. L'amicizia tra Tom ed Evangelina andava crescendo col crescere della fanciulla. Sarebbe difficile dire qual posto ella occupava nel tenero e appassionato cuore del suo fido servo. Egli l'amava come una creatura fragile e terrestre, ma nel tempo stesso l'adorava come un essere celeste e divino. La contemplava con quell'ossequiosa tenerezza che i marinai delle spiagge italiane provano dinanzi all'immagine di Gesù bambino. Il suo maggior diletto era di soddisfare i graziosi capricci di lei e quei mille piccoli bisogni che assediano la fanciullezza e che variano come i colori dell'iride. Dal canto suo, Evangelina non era meno zelante nel ricambiarlo di buoni uffici, benché fanciulletta sapeva leggere con molta grazia, un orecchio musicale, un'immaginazione viva e poetica e un istintivo amore per quanto vi è di grande e di nobile, facevano di lei la miglior lettrice della Bibbia che Tom avesse mai udita. Dapprima ella leggeva per compiacere l'umile suo amico, ma in breve le sue idee vivaci si svilupparono e si strinsero al volume sacro come i germogli della vite si allacciano intorno all'olmo sublime. Ella amava quel libro perché le destava nel cuore aspirazioni strane e commozioni vaghe e forti come piacciono a una fanciulla di ardente immaginativa. In questo momento della nostra narrazione, tutta la famiglia Sinclair si era trasferita alla sua casa di campagna sulle sponde del lago di Pontchartrain. I calori dell'estate avevano condotto coloro che potevano allontanarsi dalla polverosa e malsana città a respirare le aure fresche di quelle sponde. La villa Sinclair era costruita a guisa delle abitazioni dell'India, attorniata da svelte gallerie di bambù, si apriva da ogni lato sopra giardini e parchi. La gran sala guardava sopra un vasto giardino lezzante di alberi pittoreschi ed i fiori dei tropici, dove sentieri sinuosi scendevano in riva al lago, le cui onde inargentate si elevavano o si abbassavano sotto i raggi del sole. Spettacolo che mutava a ogni ora e sempre appariva più bello. Ora ci troviamo a uno di quei tramonti del sole che infiammano tutto l'orizzonte di una corona di gloria e fanno dell'acqua un altro cielo. È una domenica. Tom ed Evangelina stanno seduti all'ombra di un pergolato sopra un sedile di muschio in fondo al giardino. La Bibbia è aperta sulle ginocchia della fanciulla. Ella legge: «E io vidi un mare di vetro misto a fuoco». «Tom», disse ella interrompendosi a un tratto e accennandogli il lago, «eccolo!» «Che cosa, Miss Eva?» «Non vedi?» rispose la fanciulla, additando il tremolare delle onde che riflettevano la luce aurea del cielo. «Ecco un mare di vetro misto a fuoco!» «Oh, è vero, Miss Eva!» disse Tom e si pose a cantare. «Oh, se avessi l'ali d'oro dello splendido mattino, pari a etereo cherubino, volerei lassù nel ciel, e allor d'angioli un bel coro guiderebbe il volo mio fino a te, città di Dio, senza alcun terrestre velo». «Dove credi tu che sia la Nuova Gerusalemme, la città di Dio, zio Tom?» chiese Evangelina. «Lassù, oltre le nuvole, Miss Eva». «Oh sì, mi pare di vederla. Guarda, in quelle nuvole si direbbe che vi sono porte immense di perle, e più in là, lontano, lontano, tutto è d'oro. Tom, canta gli spiriti beati». E Tom cantò le parole di un famoso inno metodista. «Miro spiriti beati dallo sguardo risplendente e ogni anima gaudente che di gloria si sbramò. Tutti volano ammantati di candore uguale a neve e la palma ognun riceve che fra stenti si acquistò». «Zio Tom», disse Evangelina, «io li ho veduti». Tom non ebbe di ciò dubbio alcuno né maraviglia. Se Evangelina gli avesse detto che era stata in cielo, avrebbe creduto la cosa del tutto probabile. «Questi spiriti vengono qualche volta a trovarmi mentre dormo», soggiunse Evangelina, e gli occhi suoi presero un'aria meditabonda e sottovoce, e la ripeté il canto. «Tutti volano ammantati di candore eguale a neve, e la palma ognun riceve che tra stenti si acquistò». «Zio Tom», riprese poi, «io vado lassù». «Dove, Miss Eva?» La fanciulla si alzò in piedi e stese la mano verso il cielo che guardò fissamente. Pareva che gli ultimi bagliori del giorno circondassero le sue guance colorite e la bionda sua testa di un'aureola che nulla aveva di mortale. «Io vado lassù», ripeté, «fra gli spiriti beati, Tom. Vi sarò fra breve». Il cuore del fido servo sentì un terribile colpo. Egli si rammentò, come spesso aveva osservato da 6 mesi, che le piccole mani di Evangelina erano dimagrate, che la sua pelle era più diafana, più breve il suo respiro, e che quando aveva giocato un momento nel giardino era stanca e abbattuta. Ella, che per là dietro poteva correre ore e ore senza provare la minima stanchezza. Egli aveva spesso udito Miss Ofelia parlare di una tosse che resisteva all'uso di tutte le medicine. In quel medesimo istante, le gote e le manine di lei erano infuocate dalla febbre, eppure il pensiero che ella aveva allora espresso non gli era mai balenato alla mente. Quando si vede quella mistica luce nello sguardo e quando l'anima giovinetta si rivela con più dolci e più sagge parole che le parole solite dei fanciulli, non c'è da sperare di ritenere questo angioletto. Egli reca in sé l'impronta del divino suggello e lo splendore dell'immortalità brilla nei suoi occhi. Così avviene di te, amata Eva, bell'astro del domestico cielo. Tu declini all'orizzonte e coloro che ti amano di più non se ne avvedono. Il colloquio tra Tom ed Evangelina fu interrotto da un'improvvisa chiamata di Miss Ofelia. «Eva, Eva, torna in casa! La rugiada della sera può farti male!» Evangelina e Tom rientrarono subito. Miss Ofelia era molto esperta nell'arte di allevare fanciulli. Nata nella Nuova Inghilterra, sapeva ben discernere i primi indizi di quel morbo lento e insidioso che porta via tante belle e dilette creature e le segna col marchio irrevocabile della morte prima che un sol filo della loro vita sembri spezzato. Ella Aveva osservato quella tosse sottile e secca e quella guancia sempre più colorita che non si lasciava illudere né dalla vivezza dello sguardo né dalla giovialità febbrile. Comunicò i suoi timori a St. Clair, ma egli respinse le sue insinuazioni con un'ansiosa vivacità che non si accordava punto con la sua noncuranza abituale. «Oh, non mi fate il corvo di sinistro augurio, cugina, non posso soffrirlo», diceva egli. «Non vedete che la fanciulla si fa grande? I bambini indeboliscono quando crescono troppo presto». «Ma quella tosse!» «Baie, quella tosse è un bel niente, Eva ha preso forse una piccola infreddatura». E così appunto cominciò la malattia di Elisa Jane, di Elena e Maria Sanders. Tacete con queste sciocchezze da nutrici. La vostra vecchia esperienza vi rende sì saggia che un fanciullo non può più tossire e starnutire senza che subito sia perduto? La sola cura che dovrete prendere della fanciulletta è di preservarla dall'aria vespertina, non lasciarla giocare troppo e vedrete che allora ella starà bene. Così diceva St. Clair. Ma cominciò ad essere inquieto. E agitato, con ansietà febbrile gli sorvegliava giorno e notte la sua figlioletta, come era facile accorgersi dalla frequenza con cui ripeteva che la fanciulla stava proprio bene, che quella tossetta era cosa da nulla, una leggera indisposizione di stomaco cui i fanciulli vanno soggetti. Tuttavia, le stava vicino più di prima, la conduceva più spesso seco alle passeggiate e quasi ogni giorno riportava qualche pozione fortificante. Non già che la fanciulla ne ha bisogni, diceva, ma perché ciò non può farle alcun male. Nondimeno, bisogna dirlo, la cosa che gli rattristava il cuore più di tutto il rimanente era la quotidiana, crescente maturità del suo intelletto e dei suoi sentimenti. «Mamma», disse ella un giorno improvvisamente a sua madre, «perché non insegniamo a leggere ai nostri schiavi?» «Che domanda, perché non c'è l'uso di farlo?» «E perché non c'è l'uso?» replicò Evangelina. «Perché è inutile che costoro sappiano leggere, essi non lavorerebbero meglio per questo, né debbono fare altro che lavorare?» «Ma essi debbono leggere la Bibbia, mamma, per imparare a conoscere la volontà di Dio?» «Oh, possono trovare persone che ne spieghino loro tutto quello che essi hanno bisogno di sapere!» «Mi pare, mamma, che ognuno debba leggere la Bibbia da sé. Il bisogno che ne sentiamo è più frequente delle occasioni che si danno di udirne la lettura dagli altri. Eva, tu sei una singolare fanciulla, disse sua madre. Miss Ophelia ha insegnato a leggere a Topsy. È vero, e tu vedi se ciò l'abbia resa migliore. Topsy è la più maligna creatura che io abbia mai conosciuta. E la povera Mammy, soggiunse Evangelina, ella sarebbe così contenta di saper leggere la Bibbia. Come farà quando io non potrò più leggergliela? Maria, tutta affaccendata a frugare in un cassetto, rispose: Naturalmente, Eva, tu avrai da pensare ad altro che a leggere la Bibbia agli schiavi. Non già che non sia ben fatto. Io medesima lo facevo qualche volta quando non ero ammalata. Ma quando tu dovrai vestirti e andare alle feste e non ne avrai il tempo, guarda, guarda queste gioie che ti donerò quando sarai grande. Io me ne adornai al primo ballo e posso dirtelo, Eva, tutti mi ammiravano. Evangelina prese lo scrignetto e ne tirò fuori una collana di brillanti. I suoi grandi occhi pensosi restarono fissi su quelli, ma la sua anima era intenta ad altro. «Che aria grave, figliuola!» esclamò Maria. «Questa collana è di gran prezzo, mamma. Sicuramente mio padre fece venire queste gioie di Francia e se valgono un piccolo patrimonio. Io vorrei averle», disse Evangelina, «per disporle a mio talento». «Ah sì? E che ne faresti?» Oh, vorrei venderle per comprare una terra negli Stati liberi, dove condurrei tutti i nostri schiavi. Là pagherei dei maestri i quali insegnassero loro a leggere e scrivere. Evangelina fu interrotta da alcune risate di sua madre. Oh, faresti insomma una casa di educazione? Perché non insegneresti loro anche a suonare il pianoforte e dipingere sul velluto? Io insegnerei loro a leggere la Bibbia, mamma. A scrivere le loro lettere e a leggere quelle che sono loro indirizzate, rispose Evangelina senza scomporsi. So, mamma, che afflizione è per essi il non saper fare queste cose. Tom e Mammy e altri ancora ne sono mortificati e io credo che quella loro ignoranza sia un gran male. Oh, via, via, Eva, tu sei ancora troppo giovane, non ti intendi punto di tali faccende. E poi Il tuo cicaleggio mi fa dolere il capo. Maria aveva sempre pronto il doler di capo quando le facevano dei discorsi che non fossero di sua piena soddisfazione. Ma Evangelina continuò ugualmente a insegnare a leggere a Mimì.